dice Claudio. Ehi, Marcolino Gondo. E beh, mamma mia, oggi sono in fase calante. Ho fatto una spesuccia piccola, eccetera. E così, forse dopo devo andare da Media per questioni burocratiche. Che palle, mamma mia. Anche perché mia zia vive di scartoffie, di cose, tutto cataloga, tutto è manicale, però è precisa, è ordinata. Noi siamo casinisti a casa per i documenti, quello è da apprezzare molto, però è quasi fissato, dai. No, sono come ti bisogna fare sempre, mettere tutto a posto, non so mai che poi ti servono, capito? Bisogna fare sempre cose fatte bene. No, stavo fischiando, stavo controllando le stazionate. Poi stavo ascoltando in un'altra banda, in 40 metri. Va bene, va bene. Tutto cappa del roggio. E poi com'era andata l'Inter ieri? Chi aveva vinto? O pareggio? No, ho perso 3-2. Minchia. Cos'erano spagnoli gli altri? Brutte bestie gli spagnoli, C'hanno il calcio nel DNA. Barcellona, Real Madrid sono, e Atletico Madrid sono brutte gatte da pelare. Non ha giocato bene l'Inter comunque. Un po' sfigata è stata, vabbè che le mancava il miglior attaccante. Si vede, quando non c'è l'attaccante che fa la differenza. Ci viene niente in tasca a noi. Sì, infatti, alla fine a meno che uno non faccia scommesse, roba del genere, in tasca non c'entra niente. E via. Io stavo tribolando qui, era acceso l'apparecchio, non trovo gli occhiali da vista. Spariti. Lunedì ce li avevo, sono tornato, che ricordo di averli portati a casa, non li trovo in nessun posto. Ho perquisito la macchina, ho controllato tutte le stanze, niente, non si trovano gli occhiali da vista. Che posso guidare anche senza, però mi aiutano tanto. Non ho l'obbligo di lenti ancora, Quando farò la visita fra qualche anno sicuramente me lo metteranno l'obbligo. Però porca miseria. La paura mia è che siano stati persi fuori, tipo da quando ho lasciato la macchina, in quel tratto che sono tornato a casa, e lì è un casino a rifarli da capo. Non per niente, c'era una montatura, cosa, Armani, valevano un po', vabbè. Io quelli buoni li tengo sempre a casa, tanto non li uso né per guidare né per uscire. Solo per leggere, quando vado a fare la spesa, a fare altre cose, mi porto quelli vecchi perché ne ho perso un bel capital male da tre parti. Ma infatti valeva più la montatura che le lenti, lo sai, e comunque li devo cercare, continuo a cercarli, e se no pazienza, o salteranno fuori e me li dovrei rifare. Porca puttana, non ci voleva però quello, e io ci sto pure attento, mi c'ho sempre tutta una bustina dove mi porto la roba per la macchina, gli accessori per la macchina, il gel, la mascherina di ricambio, gli occhiali anche da sole, potevo perdere quelli da sole, invece proprio quelli a vista non trovo. Vabbè, adesso do un'occhiatina e poi nel caso si sente più tardi o quando capita, ok? Ciao Claudio, buona serata. Si senti di nuovo, ciao. Ciao Marco, ciao, adesso sono qua in stanza, dai. Ci si sente più tardi, non c'è problema. Ciao. Vabbè. Catarella. Allora, appoggio. Affetto, perfetto. Stavo piantando la tenda da Franco. Solo che appunto per passare l'occhio l'ho asciugato e si è staccata. Adesso lo facciamo asciugare. Io ho compreso l'antenna, hai visto una torre di rabotto. Eia, capagare. Uff, non mi c'è un po' sulla doccia. Io mi sto guardando la televisione qua in stanza e niente. Ormai non c'è niente da fare qua. Io ho fatto tutto, c'è un buco già fa. Ho pulito tutto, ho tolto tutto, ho messo tutto a posto. Che barba, che noia, ragazzi. Un sacco. Ma non ci è andato la Marina, a casa lì. No, ti scusate, sono andato a mangiare da Franco, poi sono venuto a pranzo, sono andato stasera, e non ho bucato ancora a piedi, non sono andato qua. Ma dove l'ho montata la tenda, in campagna? Qua dal monte. Ah, l'ha bucato lì da Veccia, che vera, ne ho bugio. Che Veccia, l'ha fasciata. E ne ha tolto quello lì e ne ha messo un altro, praticamente no. Perché ho avuto il tassello chimico, bisogna saperlo usare quello, eh. Io infatti le mie zappe tira fondo e lasci Fabrizio, lo devo montare io. Come bisogna saperlo usare? A parte devi far uscire il pezzo un po' a vuoto, poi quando esce l'altro colore si mischia, che è praticamente quello per farlo seccare, no? E poi niente, lo sputi dentro la tassello, diciamo, e poi niente, ci infili la barra autofriettante e la fai asciugare. Adesso lunedì quella lì già sarà già asciutta, lunedì anche domani, là. No, vi asciuga subito, fai onore asciutta. Bisogna vedere che cosa avete comprato. Io ho comprato quello della Wurz, buonissimo, costa un sacco di soldi ma è buono, capito? Non volevo dire saperlo usare, quello là, ho comprato quello buono. Poi allora ce l'avevo messo asciugato. Poi allora, ma se ti raffondi tutto, un paio di asciutto e poi gli ho piantato le piastre. Vabbè, poi diventa cemento armato così, eh. Il muro mio sì, quello che ci ha attaccato, l'ho piattrato quello cemento armato, quel cazzo mi ha fatto. Stavo bucando un piscio di labbra, non voglio viaggiare regato, ma a martello, lo sai quanto ci ha messo a bucare. Ho detto, tassello chimico poi diventa cemento armato, uguale. Ah, diventa cemento armato. Ma se lo metti in cemento armato è ancora meglio. Beh, direttamente sì. In definitiva è così. Voi ragazzi. Stanchezza. Però hai visto dove sono delle visore, mi ha mandato un video Luca che è allucinante, 10 euro, ma tanto si vede bene. Deve essere che c'è il decolore bruciato, quindi ce l'ho buttato per quello. Come colore esterno, cazzo, una granata, 42 bollici. Ma cosa mi rivolgo, Granaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Naggio, cosa mi rivolgo? Come attacco? Tutti con la decolore integrato, cosa me ne faccio? Ah, perché ce l'avevi già. No, perché quel prezzo è buono. L'ho memorizzato, la corretta, ho mandato le foto, si vede benissimo, c'è anche dei colori, molto bello. Quello l'ho buttato via perché c'è rotto il decolore interno, ma avrò bisogno di un pazzino. Io ce li ho decolori, non li ho mai buttati, li tengo sempre, possono servire. E quando ci tu vai con un televisore, cazzo, come un televisore, tu cosa mi rispondi? No, non me ne voglio, sono al salone, è camera da letto di radio, è camera da letto mia. Qua in sala radio sono le volte, il bagno me lo buono. Ma che cosa ti dico io? Perciò, ho questi 1, 2. Allora, aspetta, tanto uno lo sono ritirato, no, giù, ho 1, 2, 3, 4 Samsung. 4 Samsung. Un Saba, no, 5 Samsung, un Saba. Due Akai, fatelo conto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 8 televisori c'ho, più 2 lavari ne sono 10. Sì, allora c'è da me vai, non c'è più nulla, già va bene. No, quello lì era interessante perché è un 42 pollici, capito? È un bel grande, per quello te l'ho detto. Vabbè, comunque. Comunque risulto bloccato su WhatsApp, ma c'è la biglia in cuba davanti, WhatsApp, se si è successo qualcosa, non so, se vi siete sentiti si è bloccato, io la foto la vedo, così, se vi bisogna ti blocca, vuoi che è successo qualcosa, non so, chiamalo. Arrivo a trovare si cosa. È bloccato il mondo. Ma il bago a viso e fende male, un bel. Cazzo qua, che te si fa? Diciamo che la giudizio, adesso controllo. Vabbè, non è che, proprio visto non c'è più la foto. Vabbè, non c'è problema, non c'è un monumento a te, se io mangio tutto trombo e cago lo stesso. Sì, ma cazzo, ma chi l'hai bloccato tu, va? Cioè invece di una porcheggiosi, cazzo, tu blocchi, tu blocca te. Magari è successo qualcosa, non se ne è accorto. Senti, cazzo, una cosa allucinante. C'è proprio un sistema in questo periodo che non si riesce a capirsi uno con l'altro, cazzo. Vabbè, siamo perdi. Che cosa vuoi dire? Che non di nulla, hai già detto tutto. Ah, la vita è quella che è. La vita è quella che è, ci vuole cacciare vite. Io oggi è partito il 756, spedito, via, fuori, adesso per partire la T230 e il 780. Stiamo aspettando il pagamento. Tanto cosa cazzo mi fa? È tutto che c'è radio, va. Io dico di baracchini, mi bastano i due con 9 di tesi, se ne vai, se ne sono belli, va bene, poi non te ne fai niente, no, te ne fai niente. Desi, desi. 5 bibanda basi, cosa ne fai? Ma infatti, 5 bibanda basi, 2 basi, fatti un fior di soldi, è sempre trovati. Ne ho tenuto 2, non è che li ho tutti, attenzione, non è che avevo la piazza pulita. 2 me li sono tenuti perché mi servono. Poi 2 HF e 3 fuori alle balle. La T230 non serve più fuori alle balle, 780 che lo stesso col base grande VU fuori alle balle, le antenne lo stesso fuori alle balle, un sacco di roba che non te ne fai niente, cioè non puoi dire tutta questa cosa spenta lì, abbandonata, a fare che cosa? Mi sto tenendo quello che uso e quello che mi serve. Ah beh certo. Magari a voi mi attaccavo e me ne compareggio un'altra di ultima generazione, non lo so. Però intanto fai un po' di pulizia della roba che non ti serve, la roba che già, insomma, ha fatto la storia, cosa ne fai? Quindi, va bene, quindi se a casa sono qualche persona a parte. Assolutamente no. Tu veramente sei cosa di vinco, poi dalle 10 non si può più uscire, mi chiedo già esce. Dalle 10 di sera fino a domani mattina alle 5 non si può più uscire di casa. Non devi uscire, Luca. Mi interessa. Poi mi stai tranquillamente a casa, basta che ho qualcosa da fare. No, sia che vi dimenticate, c'è il lockdown dalle 22 alle 5 del mattino, quindi occhio alla penna perché sono sanzioni abbastanza alte. Speriamo che abbassi facendo così tutta la settimana, compreso anche il sabato e la domenica, quindi niente pizza, niente nuda, a casa. Abita me la mangio a casa, prendi il problema. Vabbè, io già me la faccio portare a casa. A parte fatto me la giubato va un metro e mezzo la bizzeria che mi servo io, l'ho tagliata tutta a trance, va, e l'ho messa in freezer, la bui. E va tu, beh. Ci andava, via. Quando serve, la scongeli, aggiungi quello che ti serve e mangi pizza. Se no un casino, la buchiamo un po' di nocchi, ciucciù, come ti dice l'uno. In definitiva così, direttamente. Allora, direttamente. Guarda parete, accortala, Franco. Ma come mai ha messo la tenda lì se non ci sta abitando, c'è sempre in campagna? Sì, ci sta abitando, certo non ci sta abitando. Non ci sta abitando. Ma te stavo a trasferire in campagna alla Lucia, boh. Cazzo, bella quella casa, grande, spaziosa. Io li prendi, andiamo in campagna a Saraguca, a Bad Americani. Beh. Dove l'ha presa la tenda, a Brico? No, ce l'avevano già, non so quando l'ho comprata. Cazzo, proprio un anno che si arriva, era sempre abbassata. A chi tutta lì ha, dai, la telecoli. Si praticheggia, cla, capito. Ma ne ricordo, se in culiti dolce, cla, sono oro, bello, eh. Oro, bello. Io ho mangiato quell'uva che mi ha dato molto un bel dolce, ma quella è della vigna di Marina. No, sta roba comparata, chissà, tranne che le mele, il melograno, l'ho comprata. No, magari. Eh, anche quel cacchio c'è un buio. Ha voglia. Sì, li copri e compra a casa, là, capito? Le sono qualcosina, qualche euro in meno le pago, là. So che devi comprare a chi? Vabbè, io li mangio comunque, non è un problema per me. Piacciono un sacco. È quello che ti cacchi molto tu. Infatti. Ma è passato te? Sì, con l'imodium sì. Questa cosa che ce l'hai spesso questa cosa, come mai? È dovuto dai calcoli alla fine, capito? Ah, per quello. Lo evitate da quello che mangi lui. In definitiva sì. Ehi, ehi, agenda bio, va. E' un clap. Sentiamo dopo, dai, che devo fare roba in cucina, ok? Ehi, vai, che mi ha dato dei messaggi. Ascolta, guarda, lì. Ciao, sentiamo dopo, anche io vado a continuare. Ehi, è tutto acceso qua. Adesso me lo prendo, l'ho lasciato qua al telefono. Gli ho detto tienimeli un attimo, lei li ha messi in borsa, mamma mia, non è proprio più la vita, se no tutto è risolto, dai. Ehi, già va bene, allora vuol dire che è tutto a posto, dai, vedi che non sei così disordinato. Vabbè, meno male, oggi è andata bene, adesso sto per mangiare e poi vado là a fare roba burocratica. Un po' mortuario, qui ci sono 23, ci sono loro che stanno modulando e per il resto è un mortuario da tutte le parti, anche in PMR era un mortuario. Io ti ho già risposto tre volte, chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare faccia come vuole, chi vuole parlare con me parla, chi non vuole parlare ci sono 339 canali, non mi nafutti nulla. Sul 23 è chiaro che c'è sempre gente, ci sono loro, fanno due chiacchiere, io entro spesso a salutarli, per carità. Se non c'è nessuno qua io vado sul 23, non è che ho problemi. Eia. Bene, dai, detto ciò adesso vado a pappare. E poi tutto il resto, dai, forse passa anche Bodale stanotte alle 10. Lì c'è l'ultimo giorno che abbiamo libero di libera uscita, perché a quanto ho capito faranno il coprifuoco pure alle 10. Non so se sia confermata anche la Sardegna, comunque un casino, uno schifo. D'altronde, se si vogliono dare risultati ci vuole un piccolo sacrificio. pensa, non sappiamo nemmeno dove pigliare il caffè. Ho detto, ci pigliamo un caffè, dice, dove ce lo pigliamo? È tutto chiuso dalle 6. Allora io gli faccio la sorpresa, come viene sotto, ci facciamo un giro, però il caffè glielo faccio trovare pronto, lo faccio con la macchinetta. Sì, ma da domani non puoi più uscire tu dopo le 10, devi stare a casa. Ci sono queste 4 ore, dalle 6 alle 10, nonostante le attività chiudano, ma da domani non si esce, dalle 10 alle 5 del mattino. Una stronzata, perché poteva fare dalle 18, ok, perché la mattina abbiamo tutti il tempo di andare a farci la spesa, fare le commissioni eccetera, dalle 18 chiuse le attività, tutti a casa, non esce più nessuno, dalle 18 alle 6 del mattino o alle 5 del mattino, perché alle 6 la gente inizia a lavorare, tutto qua. Cosa fai queste 4 ore in più alle 10, a cosa serve? Sì, ma poi anche partendo dal presupposto che tutti i bar, i ristoranti chiudono alle 6, se la gente di notte non esce più, non va nei locali notturni se sono chiusi, tutti i locali dove si beve sono chiusi, forse anche ristorazione, adesso non mi ricordo, sì, e alla fine, boh, vabbè. Infatti perciò Ivan mi ha detto, guarda, è l'unico, adesso è l'ultimo giorno utile per farci un giretto, da domani dobbiamo stare attaccati alla TV a casa con le pantofole, con la copertina sulle gambe. Io non ho problemi, se tu esci alle 10 di sera io non ho problemi, capito? Io esco molto la mattina a fare commissioni, a fare tante cose, poi io da dopo pranzo, a meno che non ci sia qualche emergenza proprio, allora come è capitato l'altra volta c'è anche la Luca eccetera, ma se no per me la sera, il pomeriggio non esiste, lo facevo già da quando lavoravo, capito? No, non mi interessa, ma anche di sabato e domenica, sempre se c'è qualcosa di organizzato eccetera, allora si usciva, ma se no io molti sabato e molte domeniche rimango a casa, adesso ancora peggio, ancora di più mi piace perché c'è freddo a uscire la sera, capito? Quindi già va bene, stiamo a casa, non consumi soldi e ci rimetti in salute. Poi loro per quella professione hanno fatto il tampone, lui a posto, perché chi è positivo glielo dicono subito, il giorno dopo glielo dicono, invece lui niente. Meglio così, dai. Beh, anche mia figlia, fatta anche io, mia moglie, tutti, no, non ce n'è problema. Bisogna essere a posto, capito? Però, ti ripeto, è meglio così, perché il sabato e la domenica, tu non so se frequenti Piazza d'Italia, via Roma, Piazza Fiume, Piazza Tola, eccetera, è una cosa allucinante, o per meglio dire schifosa, capito? Questi ragazzini di 15 anni in giro dalle 6 di sera sino alle 5 del mattino, a birra in mano, a rompere le palle, senza maschine, senza niente. Va bene, stanno a casa, capito? Sì, mi ricordo anche pre e anche post lockdown, lì via Roma, lì all'angolo via Bellini, dove c'era il locale, tutti ammassati uno sull'altro. Poi tutti, anche tra ragazzi e ragazze, bagendosi sulle guance, beh, frate, baci, abbracci. Nel tavolino da 4 ce ne stavano 7, erano uno in braccio all'altro. Figura, mascherine, il logo, manco per le balle. Eia, va bene. Dai Claudio, ti saluto e procedo alla serata, ok? Dai, sentiamo. E ciao a tutti all'ascoltoni, se ce ne dai, ciao. Ciao Marcolini, qua sono io, non c'è problema. Adesso faccio una carrellata, vediamo chi c'è. E se non continuo a guardarmi la TV, tanto fra un po' c'è di nuovo la Champions, c'è la Juventus, quindi ieri c'è l'Inter, oggi c'è la Juve, già passa la serata e un po' di sport, qualche film, qualcosa. Due chiacchiere in radio e tira gamba. Ciao, a più tardi se ci sei, ciao. Ciao. Vai, qua. Ah, il Luca Perivella. Capito, non è che diciamo Perivella, ma allora lo sa. La prima volta che l'ho sentito era Claudio Perivella. Ah, Marco, la Perivella viaggio in mezzo all'anchi. La Perivella? È che Perivella, mio via. La Perivella è bravo. Quello è il mangaglio. Mangagliò. Ma questo termine cos'è, Claudio? Algarese? Ehi, Mangagliò, Algarese, chi è che vuole entrare avanti? Tu mi stoppola, chi è? E anche un segnalone era. Io l'ho visto, ma la radio era tutta distorta. Adesso, aiutatemi il tempo. Ma vado. Sì, cazzo, ci mette a gridare. Ma non sto gridando, che... Ho saltato il finale poco fa, volevo vedere come andava. Va bene, segnale 9:20, la radio 5, adesso può fare il troppo alto. Ma la pediva la DM Santo. Sì, qual è il bravo? No, ma tu, cazzo, non dirà mai che aveva vino bravo, va via liberare, un cazzo non via Berivella. E appunto per quello, come dicevano tempo fa, il traietto del ciao. Allora, a Berivella aveva via la Vespa, Lugarelli, chi c'ha tre macchie, va via Berivella. A tu, e questo segnalone, lo sai che appena sei entrato Willis, lo stesso segnale di Claudio, 9:30, adesso sei appena inferiore a 9:30. Ciao Marco, no, vabbè, forse mi sono abbassato di voce. Dunque il segnale è ottimo, è come quello di Lucca, dai, quindi, ottimissimo, c'è neanche per i buchi. Tu c'hai la Boomerang Lem, no? Quella lunga. Sì, la Boomerang della Lem, sì, quella lunga. Ehi, ho sentito, discutevate della resistenza, la mia c'era dal 92, c'è stata roba di 23 anni, e ha resistito al tifone del 2008, mia Luca glielo ha già raccontato. Cioè lo stilo era intatto, invece si era rotto il radiale alla base perché era fradicio il metallo. Però lo stilo, l'antenna era su palo da 6, ha resistito pure con la tromba d'aria famosa, che era una cosa veramente anomala. Quindi già è resistente, non sembra, ma è resistente. E vabbè, tieni in considerazione che comunque non è la stessa di 30 anni fa, almeno io non so quella che ha montato Luca, ma la mia, proprio per carità, alla base dove c'è la carica, lo stilo praticamente prima aveva una sorta di filettature e si avvitava, adesso è lì crimpato, due schiacciature e se ne sono uscite. Quanto? Ti devo fare una domanda un po' strana, mai visto, mai successo. Dimmi. Posso, Marco lì? Vadi. Allora, tolto, ma sono sicuro al 200% perché l'ho messo io ed era funzionante. Nell'armadio l'ho messo, l'ho tolto, perché stavo pulendo e sistemando, e adesso lo accendo. Accendo perfettamente tutto, siccome è un UHF che usavo in macchina, è un Kenwood 709. Un po' anziano, ma sempre perfettamente funzionante. È un bimbanda. Come è mai possibile che il UHF esce di VAT, di tutto, di radio, il UHF non ha potenza, ma i finali non sono gli stessi? Sì, il finale potrebbe essere anche lo stesso, cambia la deviazione, le alimentazioni e la frequenza, però c'è il discorso che potrebbe avere una parte interrotta, praticamente non sta alimentando la parte che fa oscillare l'UHF. Perché riceve, però non c'è assorbimento, capito? Chiaro che io, accendendolo, mettendo le cuffie, ascoltandomi con un'altra radio nella stessa banda, la sento la radio, esce fortissimo, esce bene, però non c'è assorbimento. Mentre il VHF ci siamo i 20 ampere di assorbimento, perché è un 50 watt, di 15-18 ampere di assorbimento, lì l'assorbimento è zero completamente. Infatti il mio posto ho detto, ma certo, se i finali sono gli stessi, quindi può essere interrotta la parte VHF che alimenta i finali praticamente. Sì, anche se potrebbe anche non essere, perché io ne ho avuto tempo fa, una trentina d'anni fa, ne ho avuto uno che aveva due finali separati, uno di V e uno di U, poi ne ho avuto uno che il finale era unificato, perché all'inizio quando li hanno unificati, non i finali, hanno fatto un finale solo, era un po' più grosso l'apparecchio, mentre prima erano slim, poi li hanno fatti un po' più grossi, poi li hanno di nuovo ristretti, quindi è possibile che magari tu abbia anche due finali, però non lo so, quel modello lì non lo conosco. Vabbè, te lo dico dopo, che mi sta chiamando mio cognato, un attimino. Ehi, Luca. Aspetta, ho mandato un messaggio. Parlate in due. ho detto Luca entra, dà la benedizione e va, sicuramente ha parlato sopra di me. No, no, avete ripreso all'unisono. E adesso ti riprendi. No, mi ha chiamato mio cognato, fra due minuti di scendere che mi aveva le chiavi del capannone, domani mattina devo fare. Sono giù in capannone. Ho capito tu. No, mi dispiace perché la volevo dare al mio genero e la mettiamo in campagna, no? La mettiamo in campagna e per il PMR, capito? Non esce in una testa. Quindi ci sentivamo una frequenza per i fatti nostri, in UHF, abbiamo messo l'antennina, l'antenna, ma lo fa sempre il telefono, capito? Va bene, allora, io non sono veramente levare, no, assolutamente, ho manco aperto, ho visto che non c'è l'assorbimento e quindi l'ho rimesso a posto. Poi sarà qualche cosa interrotta in quello stadio lì, magari non gli arrivano le tensioni al finale, o magari non riesce a alimentare qualcosa, molte volte può essere anche una resistenza che si interrompe, non arrivano le tensioni e ciao. Vabbè, non so chi darla a controllare. Non lo giaccio, vabbè, mi dispiace, porca miseria, mi ricordo l'avevo staccata dalla macchina, l'avevo messa dentro l'armadio, roba nuova, c'era un sacco di anni, l'avevo mava data a Marco Scorpio, è una radio che ho sempre tenuto perché va molto bene, poi della chemo, di figurati, c'ha 50 watt in V&U e poi è molto espansa, capito? Pareva da 130 sino a 170, da 380 mi pare, sì, da 380 sino a quasi 500. E quindi era utile, diciamo, per fare questo tipo di cose. Non va bene, ti sei espresso in maniera equa, gentile e corretta, grazie a te. Bene un po'. Non solo per mettere le mani, giusto per vedere se manca tensione a qualche parte, io vuoi che faccio come ha fatto Trento. Ehi, fatto come tutte quante le altre radio, Clan, però tornando al discorso che avevamo ieri, per non essere sempre ripetitivo, è inutile che stai lì a mettere le mani quando poi non hai la possibilità di fare dei controlli sensati. Certo che no, è cosa buona. Il contesto è cosa controlli, se arriva tensione a chi, a dove, al microfono. Non è mia cosa, non capisco niente qui a stare così. Se magari ci dovessimo vedere in altre circostanze, quella voglia che può passare la controllo. Va bene, dai, scendo giù a prendere le chiavi del capannone. Luca, se vuoi riprendere, o Marco, se volete riprendere, se no tu, io 5 minuti e sto salendo. Ehi, adesso sono qui che intanto ancora con i coperchi aperti lo devo ancora finire di controllare. Anche perché avrei voluto uno strumento che non ce l'ho, però lo dovrò chiudere così. Sì, vabbè, ci ha raduto a tutti i diti. Già ci sentiamo subito, riusciamo a prendere queste chiavi, se no vi sono ancora le balle da buttare. Ehi, ok, vai, va, già sono qui. Lu. Ma quello che hai messo è il variatore? Sì, il variatore l'ho messo, e vabbè, c'è 60 pulini comunque, quelli mi danno a lungo, il variatore invece mi dà potenza in salita, prima avevo i DR, li ho tolti, perché mi si è fatto il buco in testa. Ma li hai messo la britella o la cinghia? No, la cinghia, l'ho messo la cinghia corta, no? No, io me ne ho messo la britella, la 3009. Hai fatto bene, no, io ho messo la cinghia con la corta, adesso che la volevo togliere e volevo mettere il carburatore triplo a corpo. Questo è poi la bici d'anduia. Oh, non si fa nulla, quello potevo fare 30 anni fa, ma aumenta vai, come ti poni lì, cosa ti posso dire? Il promo. Però gli appoggi di noi, altrimenti sto mangiando un po' di pane guttiao, buono, eh? Solo che ieri era, non stavo bene, avevo un intestino, non mi sono male. Oggi, grazie a Dio, sto bene, no? Avevo fame. Non siamo messo a mangiare una merenda, no? Infatti adesso lo chiudo, altrimenti stavolta non ceno. Però non so ma cosa mangiare stanotte. E quelle sono quelle cose saporite che alla fine di day ce ne davvero mangi più nulla. Molte volte capita, rosicchia qui, rosicchia lì, rosicchia là, di parola di cena, di pranzo, non mangi più nulla. A volte mi è capitato a casa di Marina, c'avevo fame, volevo fare merenda, fatto mangio, inizio a mangiare questo pane garage, questo pane buttiamo, quello al coso, la paprika. Mangio, eh? Poi mi sono bloccato, una sala del soggiorno e te lo dici, mi ando, me, tu mi tu ci cadere con uno cenato, non avevo fame. Sì, perché fa così, è come quando, che ne so, è come quando verso mezzogiorno inizia a mangiare due noccioline, due patatine, un pezzo di ghiaccio, una fettina di salsiccia, poi andiamo a mangiare, non mangi più una mazza, perché comunque lo stomaco, a meno che non siano di quei mangioni che sono abituati a mangiare, che mangerebbero a prescindere, allora è un'altra cosa. Aspetta, che mi aggiungi la tazza. Aspetta un attimo che devo andare al cutia a capicolino, inoino. Vabbè, qua. Oh, che bontà! State mangiando pizza con i baffi? Lasagna alla bolognese, pesantemente condite. Ma fate, le fate tu? No, assolutamente, no, no, non ne facciamo, le prendiamo già pronte. Quella da chilo, mi, mamma di turchi, ci ho messo il parmigiano solo aggiunto. Da che cosa mi ricostruivo? Così sopra ci metto in mezzo, e ti posso dire che la faccio anche buona. Non per vantarmi, però, molto buona. Ma vai, osa vai. È vero, io ci metto dio di resistenze, condensatori, poi ci metto mozzarella, piscito, prosciutto, vabbè, la carne vaccinata al ragù, no, cosa esce, la bomba. Ma tu lo sai che io sono talmente assillato che faccio anche di tutto, anche la pasta. La sfoglia la faccio io, se no non mi mangio. No, no, no, la pasta la cotto. A me la pasta che piace molto sono le farfalle, i tortiglioni, le spaghetti numero 5 non mi piace. È una pasta che è stupida, cazzo, no, è stupida proprio. Poi farfalle, tortiglioni, fusilli, mezze penne. Bucatini non mi piacciono, io quella è la pasta dei tossici. Basta, poi vabbè. Ma no, io non ne faccio altro, la compro. No, no, io la faccio. E quando la faccio, faccio sia le sfoglie per le lasagne e quello che rimane lo faccio a tagliatelle. E fai bene, te la metti in freezer? No, la faccio giusto quello che mi serve e in uno o due giorni, al massimo tre, te la devi mangiare. Beh, la pasta fresca, se la metti in freezer, tanto male che la fai fresca. Le lasagne sì, se per esempio ne faccio due o tre, come si dice, tagliette, magari una, ma di solito io ne faccio una a me, una la porto giù da mamma, una da mio fratello, quindi alla fine non è che ne rimanghi assai. Oh, sono sicuro che ti stai bevendo la birretta. No, no, sono giù in cantina. Ah, ma in cantina, giù, nel, dove sono venuto una volta lì, quel specie di magazzino, là. Non so se tu sei venuto qui in cantina una volta, non ho idea. Sì, sì, casa tua, sua morte. Ehi, su, giù la cantina. Sì, sì, Anto, è voglia. Certo che sono venuto. Ma tanti anni fa, questo era l'inizio che hai ripreso casa, dai. Ah, allora non ce l'avevo con la scala che scendeva da dentro casa. No, no, no, assolutamente no. Ah, ti ha fatto la scala che scende direttamente lì. Sì, sì, io ho fatto il buco, la scala me l'aveva fatta Giulio. Ah, ecco. Bella, bella. Non lo sapevo. Vabbè, comunque è piccolo come cosa, no? Ehi, lui, 13 metri quadri sono, ma me già mi basta. Mi ha da te, ma conosciamo di rompere i buglioni. Vabbè, io qui c'ho tutta l'attrezzatura, quella poca che mi era rimasta. Un casino, vera, va. Perché l'altro giorno, perché per bucare, per portare i capi da fuori, ho dovuto spostare tutto, vabbè, tutto quanto imballato, no? Tutto. È che non ne ho mai voglia, lui, mai, mai, mai. Quando rientro, me lo guardo e dico, domani lo posso. E la mia compare, cazzo, che mi arriva a 9:20, cazzo. Arrivato sono, ciao a te. Ciao, fra. Ma chi è che ti arriva a 9:20? Cazzo, mi stai arrivando al cuore oggi. Hai visto? Sì. Dici sempre, non ti sento, arrivi due, tre, sistemati. Ciao Tino, comunque Antonio mi sono notato, adesso entra magari non perché c'è il Covid o cosa, e uno dice chi entra oggi, entra domani e poi sparisce, entra a fare 10 anni. Amaro, la pane è veniera. Io sto entrando adesso perché c'è l'antenna, e la sto provando, non l'avevo provata, so che funziona. Ehi, vabbè, siete tutti lì attaccati. Oh, qua c'è un bel segnale, sei quasi 9:20, 9:15 abbondante, Antonio. Lì, vabbè, sei davanti a Luca e Tino ce l'hai di spalle, vabbè. Vabbè, mucolo. Sì, diciamo che avete lo stesso segnale, tu e Luca. io e Luca. Sì, se parlate assieme sicuramente non vi annullate uno con l'altro. Vabbè, lui un quanti watt sta andando però? Io sto andando, non so, 5 watt, 6 watt da questa radio. E io non lo so adesso di preciso, no, 5 watt non sono, magari saranno 10, 11. Io ne ho molti meno tu. E vabbè, adesso che ci sentiamo poi, chi passa non passa. Per ritenere una arriva più forte di te, tu, cioè, tu arrivi 9 a questo baracchino, Antonio 9.10, 9.15, per farti capire, anche se vicino a me, che è anche una boomerang oltretutto. No, comunque magari se vi affacciate vi tocca anche la mano, vai. No, non esagerare, dai. Diciamo che lui è in alto e da lì già si fa sentire, dai. Arriva anche più forte di me da Claudio, penso a due. E gioco in un fosso, sono in un fosso. Per uscire bene, guarda, andare dove sono arrivato, almeno 50 metri. Prova, metti Tino, parla a vedere. Guarda, 1, 2, 3, prova, prova la modulazione, cambio. Sì. Esce più forte tu di Antonio qua, esce in modo più lontano. Non so quello, io non so neanche cosa usa lui. È un bruciagattolo da 30 watt sto usando tutti. Ma quello piccolino? Ehi, che gli ho cambiato i finali. Ma che ride? E ride. Tu guardate bene il bruciagattolo che ce l'ho anch'io, lo sto usando, ok? Ma infatti ne dà vergogna. Ecco, e funziona bene, perché non lo devo usare? Oh, guarda, io davvero ero innamorato. Il mio primo cuore, ero sempre innamorato. E di un beattino, quanto ne abbiamo avuto tutti? Due o tre di 140? Vabbè, io uno in particolare, però mi sono innamorato di mia moglie, io non della radio. Anch'io. Cosa avete? Io prima di innamorarmi di mia moglie mi sono innamorato della radio, di altre mogli. No, degli altri no. Tu sai cosa mi è successo ieri? Mi è arrivato l'alimentatore, quello switching, quello cinese, no? Beh? E allora ho dovuto un po' modificare, non ne voglio fili frontali, no? Questa è davanti, c'è la morsettiera. Beh? Ho fatto, ho messo le, diciamo, le bananiere, dai, le femmine, dietro il pannello, ho fatto passare tutti i cavi dentro, anche il cavo di alimentazione, tutto quanto. Però prima stavo facendo i buchi, per prima cosa è partito il condensatore, l'ho proprio bucato. E poi ho bucato, cioè l'ho bucato, l'ho danneggiato, ho fatto il condensatorino piccolino. E ho fatto un bucato piano piano, mica, è diventato in picchiata e ho fatto danno. Vabbè, comunque sì, ho dovuto smontare l'altro, che ne ho un altro, staccarne il condensatore e metterlo lì, se è a posto comunque, là. Poi c'è l'accensione da sopra, il tastino per spegnere la ventola, tutto proprio fatto dopo. Ma non stai scherzando, no? Assolutamente no, ti mando la foto del condensatore bucato, aspetta. No, tanto l'ho visto io ieri, ce l'ha fatto bene, solo che in casa mia si può smontare chi sono invece la galera un bannello. Se tu te li avevi coperti, non vedi il trapano che arriva al condensatore, non l'avresti bucato, invece l'hai bucato con un bannello, uscire. Ma di solito quando si buca un qualcosa di metallo, per non sgranare all'interno si mette sempre una stecchettina di legno, ma anche un pezzettino di compensato, di masonite. Però non ci ho pensato, tanto, la prossima volta avrò un bongo, non ci ho pensato lì, poi cazzo un casino qua, tutto smontare l'altro, tutto vuoi smontare quello nuovo, attaccarne la scheda per risaldarne il condensatore. Guarda, ti ho dato la foto, cazzo di abucco ci ho fatto. Perché i bossi muni con il condensatore, quando te lo muni lo copiava subito. Tu sei come un'amica mia, andiamo a fare la presa e rimani incinta. Dai, usci, e poi giù baetta, cazzo di sorriso. Ma lo facciamo con tutti? Ah, non lo so io, quello non lo so, io non c'ero, quindi, anzi, ma funziona. Allora, non buona, diciamo in casa mia, non buona. Da voi dici, chi dà non piglia pesce? Diamo piglia un pesce, ma che... Oh, questo è il 4.30, bene sta andando a te? Sì, sì. Ottimo, ottimo, ottimo. È un po' più di notte, c'è questo, vabbè. Questo, appena lo accendi, è sempre a bocca. Va bene, va bene. No, sto uscendo bene, Anto. Ma l'hai tirato, hai fatto qualcosa o hai messo solo i finali? No, non riesco a portarlo più su di 70 watt, perché non riesco, non mi manca uno strumento, no. È inutile che sto lì a tirargli il collo col voltmetro quando poi magari l'onda se ne fa in affanculo e che le fa tutto. No, ma lascialo così, io quello mio era originale, non c'era neanche il decimale, era di uno che non lo usava mai in AM, capito? Ho solo aperto quel trimerino che ti ho detto dello slider, quella vetretta variabile dello slider, e poi appena appena proprio l'ho fatto arrivare a metà la LC e basta, infatti sono 70 anche qui, 70-80, non di più. Ma perché tu ti ricordi la ventola si accendeva da sola? Allora, è normale come tutte, quando arriva la temperatura, adesso mi ricordo a quanto ci hai tarato il termostato, ma quando è caldo si accende da sola. Però c'è una cosa, non sono tutti così, cioè il 430, il 440, però questo qua no. No, 450 è un altro gubbattino, no, stiamo parlando di quelli mitici, sia 80 140 che sono uguali al 430 e 440, quindi il 450 è diverso. Tu ne hai due, sì, ne hai una che si accende quando fai trasmissione. Bravo. Sì, lo so, anche se l'850 è così, uguale. Quando pigi la portante si accende la ventola, quella praticamente leggera, no? A velocità leggera. Quando invece arriva la temperatura si accende l'altra, quella più veloce. Ma io glielo voglio modificare, glielo voglio fare così, tra. Ma non lo so se il 140 si può fare, prova. Allora se lo vuoi sì, andare che lì vivo carremato, io quando lo devo usare lo tengo, lo accendo 5-6 ore prima, cioè invece 430-440 li accende e ce l'ho pronti. No, quello già lo so perché l'ho avuto il 450 anche l'850, e quando schiacci il PTT c'è una ventola leggera che ti accompagna, e poi quando arriva la temperatura che deve arrivare si accende quella più veloce, però è molto difficile che si accenda quella veloce perché è talmente raffreddata la radio proprio per questo tipo di sistema che è molto bello. Sì, vabbè, io l'ho sentita, è accesa la seconda, ma dopo un bel po' che stavo modulando, che facevo magari passaggi lunghi, che prove e riprove, l'ho sentita. Infatti è raro, come hai detto tu, che a meno che fai passaggi corti e insomma questo veloce. Sì, perché è molto raffreddata dalla prima ventola, capito? Perché sono tutte e due sul finale e quindi è molto, va molto bene. Quella è una radio appunto eccezionale come l'850, che quando va in banda laterale, che fa i contest e che continui a usare la radio imperterrito, è molto, molto interessante quella cosa lì, perché il finale rispetto ad un'altra radio è molto più raffreddato. A me mi facciamo uscire di testa l'850, ma è vero, di capo. Guarda, a me, io li ho avuti tutti e due, ho avuto l'850, ho avuto il 450, e ti posso dire che sono delle radio eccezionali, hanno un ricetrasmettitore favoloso, l'unica cosa che a me non piace di una e dell'altra, ti non lo sa, è il problema carrier power, il problema dei led, queste cose qui, sono veramente, credimi, delle radio eccezionali, veramente molto molto interessanti, perché hanno un bel ricevitore e anche un bel trasmettitore, non ha niente da invidiare a quelli analogici, che poi quella è una radio analogica, un semi digitale, però funziona molto bene. Non posso dire niente del 450 e dell'850. È chiaro che è un po' più non difficile, perlomeno a me non mi è stato mai difficile, però è un po' più rompipale rispetto a una di queste analogiche vecchie, capito? Sì, quello sì, no, per carità, come ricezione è un top quella serie lì, anche l'850, a me mi dava fastidio perché comunque già lo sai che lo usavo in 27, filtri, ma era utile, per sentire uno devo togliere un filtro, per sentire l'altro devo mettere l'altro, alla fine mi sono rompito il cazzo e l'avevo dato a Brigantino, uno di Badese. Brigantino. Vabbè, lì devi avere, lo mettevi in automatico, io lo lasciavo sempre in automatico, poi i filtri che possono andare bene per la 27 sono 2.4, 2.8, quindi lo lasciavo lì, oppure quello che ci attiro, c'è 6K, 5K, se non me lo ricordo più perché va tanto che non lo vedo, ma comunque è abbastanza semplice da usare. La cosa mi girava un po' le balle era questo smitter e questa cosa appunto che poi Tino ha scoperto, chiaramente conoscendo la radio, del power e car, no? Che devi accoppiare perché altrimenti ti va picchi negativi, insomma, un pochino queste stronzate, e quindi mi ho tenuto sempre il 440 e tutte le gli altri. Vai ti. Sì, sì, infatti io ho avuto dei problemi, tra virgolette, perché non andava come dovevo andare. Allora ho chiamato il tipo, ma tu non stai scherzando? No, aspetta, guarda, mi ha spiegato due cose, ho detto, oh, andare, ho capito, l'ho andato, quindi non è che... L'unica cosa che, vabbè, poi tu saprai che se passi dall'AM all'FM, per dire, ti devi regolare i watt, perché questa parte mi sembra con 4-5 watt in FM, quindi non... E poi devi fare sempre le solite... i soliti accorgimenti per alzare un pochino, però in FM in banda li dà tutti i watt, qua invece in AM arriva alla soglia dei 90, 80-90, non di più. Sì, ti me la ricordo perfettamente, queste tronzate, sì, mi ricordo che in FM avevi sempre regolare, a differenza di queste che hanno una regolazione praticamente tarata lì e boh, 50 anni in AM e 50 anni in FM, mentre invece per la banda laterale c'è proprio 4:30 devi tirare su. Però ti ripeto, non hai niente a che invidiare da quella che ti hai fatto un'esperienza come me. È una bellissima radio e funziona molto bene. No, io non sapevo che avevi comprato quella, me l'hai detto dopo. Se no, se mi chiamavi te l'avrei detto io senza magari dire niente neanche al proprietario, perché mi ricordo che c'era questa taratura tra il car e il power, capito? C'ha due posizioni che tu devi lavorare per averla stabile, per darti picchi modulazione, la potenza che eroga lei. Se tu non regoli bene quelle, ti dà picchi negativi, potenza non ne hai, è un casino. Vabbè, ok, riprendi Anto. Scusate un attimino, adesso devo leggere un messaggio che mi è arrivato dalla scuola. Fai, scuola te andando. No, dei miei figli. Ah, non si è voluto andare quando era giovane. Vabbè, se li passavano il compito, ero più contento di tutti. Allora, un attimino. Disertore. Tanto, voglio mettere a mamma. Una volta che gli ho detto, adesso mi scrivo all'università. Mi devi provare, mi fa visto il gatto 30 zincani e vuoi andare all'università, mi ha detto. Vabbè, cosa c'entra? Anche io molte volte ci ho pensato di farlo, tanto alla fin fine ormai si studia a casa, non è che secondo che facoltà scegli non devi neanche frequentare, quindi io ci ho pensato davvero, magari più in là quando avrò più calma è giusto, una soddisfazione personale, cioè non è che vai all'università a 50 anni baffagosa, no? Ma o così. Sì, ma infatti no, c'è la battuta di Tino che appunto sono dei figli, lui già ci siamo andati, basta così. E beh, quindi Anto, cosa mi dici? Sta funzionando bene con la radio? Cioè sei da MSC finale? Altri problemi non ne hai avuto? Per il momento, non ho avuto molto, non c'ho neanche il microfono originale, sto utilizzando un microfono Lafayette, perché non ne ho il microfono originale, io il 60, quello l'altro scardinato, l'ho lavorato insieme al 440. Quindi no, microfono originale non ne ho mai avuto, cioè ce l'avevo una volta ma l'avevo prestato a qualcuno, chissà che l'ha giudato, non è più ritornato. Chi ha problemi, scagli la prima pietra. Mimmi. Hai chiamato una foto, vabbè, ci mette, non ci avrei il telefono lì, il foro che ho fatto al condensatore. Mi sa che lì posso mettere anche una staffa, un tassello. No, il telefono ce l'ho qui, ma qui giù non riceve, ma così mi pare. Infatti io quando voglio isolarmi dal mondo scendo qui e non mi chiama più nessuno. Ecco, già giù compreso, va. Praticamente devi considerare che qua sono a 40 cm a livello stradale ed è tutto tracchita intorno. Dove sei tu, Anto? Prima o dopo il tabacchino? Dopo, molto dopo, su in alto. Questo non mi credo che abitava mio cognato. Prima o dopo la rotonda? Poco prima. Quel palazzo che c'è a sinistra? Dietro, non proprio quello della via di Vera Feda, il parallelo. C'è il Moscardino, buonasera. Sì, proprio dietro. Moscardino, sì, c'è quella frutta e verdura all'angolo. Sì, ho capito. No, perché lì di fronte prima abitava mio cognato. No. Tanti anni fa. Va bene, ci ha appena sposato. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Solo, solo. Stavo ascoltando, io pensavo anche invece in via Pratti, capito? Pensavo che tu fossi in via Pratti. Sono via Pratti, ciao Gianni. Ciao Tino, buonasera. Ciao Gian, no, te l'avevo detto che ero su, quasi vicino alla CRAI, su in alto, ti ho detto vicino alla scuola professionale. Io lì c'ho il veterinario, vado lì, da Fracassi. Ah sì, io sono andato un paio di volte lì, poi adesso invece sto andando da... La Cresce, in via degli astronauti. Fracassi è bravissimo, perlomeno a me accontenta molto, è molto bravo. Ma fracassa pure? No, non fracassa, fa casino più che altro. Fa casino, fa, bene, vai Tino. Eia, sono qua, stavo leggendo, sono impegnato, non occhio qua, non occhio al baracchino. Sono qua. A parte gli scherzi, quando c'avevo quello di via Pascoli, ogni volta mi faceva pagare la visita, invece da lì, da Fracassi, vado e mi dice, vai tranquillo, fammi sapere. Ma dimmi una cosa, con le via Pascoli dove c'è un angolo? Oh, lascia perdere, quanti soldi gli ho regalato. Mi hanno detto anche che non è bravo quello, eh. Allora, ma tu stai parlando di quello che è senza capelli? Ce ne sono tanti, no, quello lì è Lello, che lo conosco, quello già è bravo. Infatti io parlo di lui perché quando avevo il cocker Claudio andavo da lui e poi c'era l'altra dottoressa, non so come si chiama neanche, Ricciolina, molto brava stesso, però cazzo, troppi soldi, sono troppo cari. Carboni. Bravo, Carboni, sì. Dottoressa Carboni, quella Ricciolina. Esatto, biondina che distintino. Ehi, Gelli. Cioè, ma non ho capito, che malattia avete che andate dal veterinario? Sai, a me mi si allungano le unghie, si chiamano le smaniosi quella lì. Invece io forse capo, per quello sto parlando. Devo mangiare il pollo. Le smaniosi, dai, è una malattia, purtroppo in campagna così. Tu mi chiedi da un veterinario o no? Morsicavo anche tu, per quello mi hanno... sono andato al veterinario, morsicavo come il cane. Perché te bugi veloce già, rilascia, ti aspetta, un secondo. Io mi allontano e vado a portare il cane, ci sentiamo dopo. Cosa hai detto, Anto, che avete parlato in tre? Ho detto, che razza di malattia avete che andate tutti dal veterinario? Ah, pensavo stavi dicendo a me, no? Io ho un fusci qua, via Vanno Basso e sono contentissimo. Quando non ci sarà più il mio cane, vado a trovare a lui e faccio il cane io. Beh, ci sentiamo dopo, riprendi Gianni. ciao, buona passeggiata. Ma tu, che apparato hai messo a posto? Sento che hai cambiato i finali, quale apparato? In un 140 vecchio più di me, sicuramente, no, vecchio più di me, no, diciamo che ci avviciniamo. Ma quello che l'avevi verniciato, quello lì? No, quello era il 440 che avevo dato. Questo l'ho preso praticamente con i finali bruciati, in cambio gli ho dato in cambio un multimode 3 con la scheda di 45 metri. Mi ha dato così, mi ha detto che l'aveva provato in macchina, a due colpi di portante si era interrotto. Ma che cosa, il 140? Sì, mi ha detto, l'ho portato, dice, con degli amici, volevamo fare un collegamento. Questo è un ragazzo di Ottieri, amico di quell'altro mio amico che c'ha l'azienda, che gli faccio i lavori. E mi ha detto, guarda, l'ho portato, dice, con degli amici, volevamo fare dei collegamenti. L'antenna in macchina c'era, l'ho collegato, boh, dice, mi manda la terra, dopo un paio di passaggi, dice, mi sono accorto che non si sollevava più lo Smith, infatti aveva bruciato il finale. Avrà invertito i muri, No, ha detto che stavo parlando. Sicuramente l'antenna si è, magari lui l'antenna l'ha controllata, con, ne so, con un apparecchio da 4 volte ci dava 1,5 di stazionare, ma quando gliene dai 100, le stazionare salgono a presso la potenza. Certo che sì. A 100, per dire, da 1 a 1 va 1 e 2, 1 e 3. Vabbè.